piccola corrispondenza qua da Giova, da San Cristoba, per raccontare i fatti avvenuti ieri nella comunità di Milciton e negli Altos di Chiapas. Già ci è parlato varie volte in radio della comunità di Milciton, la comunità dell'entroterra Campania, resistenza contro il progetto di costruzione dell'autostrada San Cristobal Palenque, quindi contro un progetto di costruzione territoriale. Questo progetto è fortemente appoggiato da, oltre che ovviamente dal governo che ne è l'ideatore, da un gruppo militare della zona, il cui nome è Partito de Dios, all'Alteante, un gruppo finanziato appunto dal governo dello Stato e che trova appoggio in altri gruppi paramilitari della zona. Quindi diciamo le aggressioni e l'ostilità nei confronti delle comunità e degli aderenti all'altra campagna di San Cristobal e di Milciton, ormai hanno diventato da parecchi anni. Ieri è successo questo fondamentalmente. Sono stati sequestrati, come già era avuto in passato, prima uno e poi gli altri due compagni della comunità ambientale di Milciton, uno dei quali è stato anche torturato, picchiato, legato a un palo. Questo è dove è successo per 12 ore e i compagni hanno subito reagito bloccando la strada e facendo un picchetto spontaneo per affermare la libertà dei compagni sequestrati. E sono arrivate anche le autorità, è arrivata la polizia e anche noi da San Cristobal come delle all'altra campagna e a Nodo Solidale siamo andati appunto a documentare, aiutare a dare mano forte ai compagni della zona. Quello che è successo subito dopo è stato che tramite diverse trattative appunto fra le autorità presenti e il gruppo paramilitare, alla fine i compagni sono stati rilasciati intorno a, diciamo, sulla di cena, più o meno alle 9, alle 10 di sera. Sono stati rilasciati, uno dei quali in condizioni abbastanza gravi, è stato torturato, picchiato e si è viziato per diverse ore e portato all'ospedale appunto da un gruppo aderente alla otra. E a quel punto la situazione sembrava essersi tranquillizzata, visto che era anche tanto la polizia presente, quando a un certo punto si sono sentiti i primi spari e niente, siamo trovati subito in mezzo a una fitta serie di colpi e soprattutto di un calibro di arma da fuoco abbastanza pesante. C'è stata una prima serie di, diciamo, una quindicina di colpi, una pausa di 5 secondi e la seconda serie che è partita subito dopo. Nella prima serie subito c'è stato appunto accanto a me, abbiamo visto un compagno cadere, il suo nome completo non lo ricordo, comunque anche su Indy Media e su altri media indipendenti ci sono tutte le informazioni. Comunque un compagno di 3 anni della comunità. È stato colpito, diciamo, all'altezza del fegato e subito la situazione è sembrata molto grave. Dopodiché, appena ci siamo accorti che tutti i compagni si sono accorti di questo del ferimento del compagno, c'è stata un'altra serie di colpi e un'altra serie di colpi ancora di un calibro più forte. Questi sembra c'è la possibilità che c'erano anche della polizia presente, quindi c'è stato anche un fronteggiamento fra i due fronti, quello paramilitare e quello della polizia, ma c'è tutto da verificare e sinceramente non ci metto la mano sul fuoco, visto la loro collaborazione. Subito dopo sono intervenute le autorità e, diciamo, i fatti dopo ci siamo resi conto dovrebbero essere andati così, perché noi abbiamo solo tutti erano solo nell'occhio nel fuoco appunto di questi colpi che arrivavano, non si capiva né da dove né da che parte. Sembra che loro, una parte di loro abbia, diciamo, circondato una zona un po' più a sud della comunità e da un'altra parte ci è arrivato un pick-up carico appunto di questi loschi personaggi che ha sparato verso la comunità. In quel momento eravamo riuniti fuori al centro proprio della, diciamo, dell'area comune della comunità, quindi tra la chiesa e la sala dei Vignoni, quindi hanno, diciamo, sparato per uccidere, hanno sparato nel gruppo in quel momento. E subito è arrivato l'esercito, quindi è arrivato un camion dei militari che ha chiuso la strada e ha diciamo, circondato comunque la parte della comunità. C'è stato un fatto, a parte gravissimo, ma assolutamente molto strano, no? Tra virgolette, dicendo, sembra appunto, a giudizio dei compagni della comunità, che questo pick-up che ha sparato nei confronti dei compagni sia ripassato poi davanti a loro nel momento in cui i militari erano schierati. Quindi c'è stato un po' di tensione tutti hanno indicato il pick-up dicendo fermatevi, sono loro i responsabili appunto del tentato massacro, e li hanno lasciati passare. Questo insomma diciamo spiega molto dell'impunità che godono questi personaggi, no? Intorno alla mezzanotte abbiamo raggiunto poi l'ospedale, siamo usciti dalla comunità, abbiamo raggiunto l'ospedale dove tuttora, questo è il caso di dirlo, tuttora dopo 14 ore il compagno ancora non ha subito un'operazione, quindi rimane con la pallottola dentro, una pallottola di calibro molto alto, e rimane lì. È stata fatta una trasfusione, ha perso molto sangue, però ancora si trova in disperazione, quindi c'è un po' un gruppo di gente che richiede anche nel diciamo questo tipo di intervento, non si riesce a capire l'atteggiamento nemmeno del personale medico. Più o meno questo sembra, e questa è una notizia da confermare quasi certa, che verso l'alba siano stati arrestati 23 di questi, di appartenenti a questo gruppo paramilitare. Probabilmente forse era stato troppo allo scoperto questo tipo di azione anche davanti ai personaggi del governo. Però sembra sì che siano state 23 presunti partecipanti all'azione contro la comunità di Mizzitonna. Questa però ci ritroviamo di confermarlo, insomma.